24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Adesso sta per arrivare Letta. In questo momento non c'è perché si sta scrivendo sulla fronte Giocondo. È occupato. Vabbè, chissà se davvero è così, se si stava scrivendo Joe Condor sulla fronte, non credo, perché poi è apparso ieri il premier, il presidente del consiglio da Fabio Fazio. Mamma mia, che momento, ragazzi! Che momento! Sono le 6:30 minuti, crolla giù tutto, viene giù tutto. Ma com'è possibile? In 24 ore, 48 ore c'è stata un'accelerata clamorosa. Oggi, se guardate i giornali, sono 10 pagine sulla crisi politica. Intanto io ricordo che si apre imperterrito, vado avanti, si apre oggi la 22esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché si apre oggi la 22esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Io vado avanti dritto, niente mi fermerà su questo. E allora vi raccontiamo tutto della situazione davvero difficile nel nostro Parlamento. Saluto Miriam Lucchetti in redazione, saluto il nostro alpino Peter Bescapè, tutto in fibrillazione, lo dico anch'io, per il nuovo palinsesto di Radio 24. E allora eccoci qua, il Parlamento può aprire. Chi c'è? Il caffè volentieri a tutti quanti. Io non lo voglio il caffè della Minetti. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Trozzate col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Eccoci, va bene. Non cambia niente qua, sempre Nicole Minetti che ci offre il caffè. Allora io voglio salutare Matteo Salvini della Lega. Buongiorno europarlamentare, buongiorno Salvini. Buongiorno, buona settimana. Dai, che il Milan ha recuperato 2 punti sull'Inter, guardiamola così, insomma. Abbiamo una squadra imbarazzante. Però volevo dire alla signora che un caffè offerto è un caffè offerto. Ma infatti, un caffè offerto non si guarda in faccia a nessuno, non è che... Vabbè, comunque, voglio salutare, un po' di timore ce l'ho anche, Alberto Forchielli, buongiorno, dove si trova? Sempre a Hong Kong. Ciao Alino, sì, sono a Hong Kong. Io ho paura, Forchielli, ho paura a chiederle cosa pensa delle ultime 48 ore, perché ci eravamo lasciati che era tutto più o meno abbastanza, no? Abbastanza tranquillo. Adesso, che ne pensa delle ultime 24 ore di casini qui? No, vedo degli sviluppi molto positivi, perché sai, i mercati sono cretini, però una situazione di paralisi governativa vuol dire che in realtà non si spende, per cui i conti sono più in sicurezza di quanto non lo fossero prima con il governo delle larghe intese. Dice a me. Il bingo bunga è come un toro infuriato che gioca l'ultima carta per non farsi cacciare dal Senato. Questo è il suo vero problema, perché perdendo l'immunità a quel punto gli arrivano anche, capito, l'arrestano anche con dei mandati dal Ghana, per cui finisce a rasinare. Quindi questo è il suo problema, deve far saltare questo Senato, questa idea delle nuove elezioni è molto stupida, perché con questa legge elettorale tre letamaie politiche, sostanzialmente è molto difficile che nessuno potrà avere la maggioranza al Senato. Sì, questo sì. Quindi non è che poi dopo bingo bunga si ritrova con un Senato favorevole. No, capito, ma bingo bunga temo. Guadagnando tempo. È la nuova evoluzione, da bunga sconi a bingo bunga, i mandati dal Ghana. No? Sta crescendo, capito? Sta guadagnando i galloni. Ah, vabbè. Poi c'è anche questo problema, non dimentichiamoci che il mercato dei bond italiani è il terzo mercato al mondo. Prima di noi vengono i giapponesi e vengono gli americani, gli americani hanno il dollaro come valuta di riserva, per cui più le cose vanno male la gente si rifugia nel dollaro. I giapponesi hanno un debito pubblico completamente sottoscritto da investitori giapponesi, anzi anche un surplus all'estero. Noi invece ci avremo 700 miliardi di euro sull'estero e poi qualche altra centinaia di miliardi sul sistema bancario. Però insomma, dice Forchielli, se la situazione... No, fammi finire, caro. Oh. Fammi, è importante, di nuovo con questa interruzione. Ma ho capito, ma non interrompo. Allora, sto dicendo, si dialoga, Forchielli. Si dialoga, così non è che interrompo. Ma mi dialogo, mi fai finire i discorsi? Cazzo dialogo. Allora, avanti. Se viene giù sta roba qui, il problema del crollo del sistema del debito italiano è un sistema sistemico mondiale, minaccia la ripresa mondiale. Per cui a questo punto bingo bunga è proprio l'artefice di questa cosa qui. Per cui secondo me stamattina sì, bisogna vedere come apre la borsa, sì, comprano i titoli di Stato. Però è molto indicativo vedere come apre la Fininvest, che quel famoso petardo in mezzo alle chiappe costituito dalla Fininvest potrebbe portarlo a una, sì, insomma, i titoli di Berlusconi d'emergenza. Allora, Salvini, e qui insomma l'analisi di Forchielli si sa, sono sempre di quelle un po' scoppiettanti che dobbiamo fare. Però Salvini oggi intanto un giudizio, da leghista sarà contento, no? Che viene giù tutto così si va a votare, questa è la linea un po' della Lega, no? Per di capire. Ma no, guardi, io preferirei che ci fosse un governo che stesse facendo qualcosa. Se un governo non è in grado di far nulla, peggio che si può fare in un momento come questo è non far nulla, non decidere nulla sul lavoro, sulle tasse, sull'economia, sull'agricoltura. Quindi se sono in condizione di far nulla, tanto vale provare con qualcun altro. Non è che il risultato in giunta se a Roma c'è casino, anzi alcune risposte anche per le risposte del nord devono passare da Roma. Sì, ma Salvini, dov'è che si trova Salvini? Dov'è che la troviamo Salvini? È nella Padania dove non va. No, ma infatti no, ma aspetta Salvini, non si sente niente al cellulare, aspetta, proviamo a richiamarlo, in circonvallazione non ha capito niente, c'è la coda, non lo so. Vabbè, allora Forchielli, faccio sentire questa, ieri Berlusconi che diceva da 55 Bingo giorni... Bunga! Vabbè, insomma, io lo chiamo Berlusconi e Forchielli lo chiama Bingo Bunga, dice finalmente... Forchielli ieri era il compleanno di Berlusconi. Si è fatto un bel regalo. No, era il compleanno di Bersani e di Berlusconi, sono nati lo stesso giorno, Bersani e Berlusconi. E così sono curiosità. Allora sentiamo Berlusconi ieri che è intervenuto via telefono a una festa che gli hanno fatto. Non sono stanco di combattere, oggi compio, non mi ricordo più, 37 o 47 anni e comunque sono in piena forma. Però, oltretutto questa notte, dopo 59 notti nelle quali restavo a lavorare fino alle 5 perché non riuscivo a dormire o restavo anche a guardare il soffitto, questa notte ho dormito 10 ore a fila. Oh, Salvini abbia recuperato 59 giorni senza dormire, poi 10 ore a notte, un Berlusconi che dice serenissimo in pratica, no? Ma mi fa piacere per lui, si sente meglio? Si sente bene, meglio? Bene, adesso si sente. E io stanotte invece devo comunicare al popolo che mi sono alzato alle 5:15 per preparare il latte alla bimba, quindi sono un po' rimbambito. Siamo tutti contenti di questo, soprattutto la bimba sarà contenta. Lei era estremamente soddisfatta e poi si è riaddormentata. Stavo dicendo che sentivo Forchielli, di cui condivido l'analisi, in buona parte, a parte i bungasconi e quelle robe lì. Come Lega non tipo lo sfascio, ripeto, perché abbiamo bisogno di un governo che ci dia delle risposte. Oggi se riaprono le fabbriche della Riva in Piemonte, Lombardia e Veneto, quindi ricominciano da stamattina a lavorare 1500 operai, è perché dopo 15 giorni di pressing a Roma qualcuno si è svegliato e quindi si salta tutto a Roma, non è che a Milano festeggiamo, però piuttosto che veder lì qualcuno fermo, immobile, è chiaro che se non sono in grado di combinare niente, tanto vale tornare a votare e secondo me una maggioranza ci potrà essere se si torna a votare. Detto questo, io non penso che si torni a votare perché il vero presidente del Consiglio, che si chiama Giorgio Napolitano, sicuramente si inventerà qualcos'altro. Beh, si inventerà, stanno cercando di vedere i numeri, sono già partiti sui giornali i grandi numeri, chi può andare a sorreggere in qualche modo, si guarda tutto il Movimento 5 Stelle, ma soprattutto si guarda all'interno del Popolo della Libertà, perché pare spaccato. Sentite cosa dice Beatrice Lorenzin, ministra della Salute, che si è dimesso, al Corriere della Sera: non voglio un partito stile Alba Dorata. Sono i neonazisti in Grecia, no? Dove, accidenti, c'è, cioè, il paragone del suo partito è questo. Oppure Lupi, ministro che si è dimesso, sempre al Corriere, dice: io sarò fedele, cioè sarò leale, ma non fedele. Io ho un cane, si chiama Macchia, lui è fedelissimo, ma la lealtà è un'altra cosa. Dunque, sarò leale ma non fedele come un cane. Ma insomma, Forchielli, questi sono... Che succede all'interno del Popolo della Libertà? Forchielli... Io non sono un grande scrutatore del Popolo della Libertà. Infatti, però, temevo questo. Però mi sembra abbastanza evidente che questa decisione sia stata presa al di fuori di ogni canone formale di un'organizzazione di partito. Una roba così impulsiva, sentito due persone, comunicata ad Alfano mentre stava negoziando con Letta, per cui... Qui è emerso prepotente il partito padrone, capito? E gli impiegati che devono fare l'interesse del padrone, perché non è questione di io, è questione del padrone che non vuole andare in galera. Questa è la questione, capito? E per cui, capito, la gente, un minimo di dignità in giro ci deve essere. Io non ho niente, cioè, il centrodestra deve essere rappresentato. Guarda, anche la Lega ha delle istanze che non sono per niente sciocche, voglio dire, è questo concetto di partito padrone contornato da ruffiani, e qui la gente si è sentita veramente. Il problema è che Ricordati, Alino, che non credo che mai nella Repubblica Italiana sia caduto un governo, si sia tornate alle elezioni prima dei fatidici 2 anni e mezzo e un giorno necessari per poter riscattare la presidenza. Ma non c'è più questa cosa. Non c'è più questa cosa. Adesso bisogna fare 5 anni, bisogna fare 5 anni interi. E quindi questo caso. Ha maggior ragione. C'è da dire che Salvini, Forchielli dice: in fondo, se non c'è un governo, i mercati sanno che nessuno spende e spande. Voi dite: vabbè, basta questa avventura, bisognerebbe andare a votare, anche se Napolitano farà di tutto per non votare. Ho capito, ma Salvini, ma una situazione di incertezza, se si dovesse dover andare al voto nuovamente, cioè l'idea che diamo dell'Italia che ogni 2 anni deve rifare un governo, non si fanno le riforme, cioè questa cosa non vi preoccupa, non ve ne frega niente a voi della Lega? Guardi, una delle ultime scoperte dell'attività di governo è stato che chi ha donato sangue nei 20, 30, 40 anni passati, chiedendo delle giornate di permesso, deve recuperarsi prima di andare in pensione queste giornate, altrimenti gli tagliano la pensione. Un paese dove un dono nobile, gratuito e fondamentale come il dono del sangue, a fine carriera lavorativa, invece di una pacca sulla spalla, ti comporta un'infilata nel dietro, è un paese che ha la frutta, e quindi tanto vale mandarlo a mare, allora, cioè, che vuol dire? No, allora, se devo morire di una lenta agonia, o devo provare a rialzarmi in piedi, a tirar 3 manacciate, a vedere se riesco a scrollarmi di dosso questo fango che mi sta seppellendo, io non muoio di lenta agonia. Cura shock, allora, è tre anni che si alzano le tasse, anzi anche più di 3 anni. Sì, sono anni, facciamo così, senza andare a polemizzare del centrodestra e centrosinistra, è colpa tua e colpa mia. Sono anni che, alzando le tasse, in Italia lo Stato incassa di meno e si perdono posti di lavoro. E se forse, per dirla con Paul Krugman, che non è un cretino come Salvini ma è un Nobel per l'economia, diminuendo le tasse forse lo Stato incassa di più e riparte il lavoro, riparte l'economia. Non è peregrina come cosa, insomma. Ecco. E invece le tasse che succede aumenta. Bianco, rosso, verde, che può rischiare questo, visto che tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi ci ha portato al disastro. È il governo Letta questo, lo chiedo a lei, lo chiedo a voi. No, ma non credo, ma nessun governo. No, ma nessun governo. Infatti, tra l'altro, martedì iniziano e aumentano le tasse, aumenta l'IVA, diciamo. E Saccomanni, il ministro del tesoro, che tra l'altro qualcuno ipotizza potrebbe essere il non ce la fa Letta, subentra Saccomanni, così titola per esempio il giornale, come uno degli scenari. Saccomanni fa sapere al tesoro servono 5 miliardi. Ogni giorno dicono, ogni giorno c'è questo titolo inquietante, servono 5 miliardi. Io metto sempre a disposizione i miei 2 eurini, di più non posso dare, la lor signori se aggrada, questo è ciò che posso offrire. 24 mattino. Buongiorno signora Presidente Boldrini, ho delle notizie fantastiche da darle. Numerose donne, approfittando del fatto di non poter più comprare cibo, non avendo soldi, non apparecchiano più le tavole. C'è questa cosa, mi scusi ma purtroppo come lei non sono molto informato, si chiama crisi. Beh, ci sta dando una mano. Aspettando sue nuove riflessioni, la ringrazio di cuore, signora Presidente Boldrini. Volevo dire alla signora Presidentessa Boldrini che quando si ama, per le persone che si amano, non solo si è disposti a servire a tavola, ma anche a lavare i panni, a fare tantissime cose ancora più umili, perfino a dare la propria vita per le persone che si amano. Se lei non si sente di amare, non ha questo stimolo, nessuno glielo chiederà di fare queste cose. Ciao Alessandro, ho raccontato a mia mamma di quello che ha detto la Boldrini e mia mamma ha detto ma se c'è la roba da mangiare io 20 volte faccio avanti e indietro dalla cucina alla tavola, ma questa non lo sa che non abbiamo i soldi per portare a casa da mangiare. A me mi viene a ridere a pensare che questa qui non sa che ci sono più di milioni di italiani che non arrivano a fine mese. Attenzione, attenzione! È stato inserito il codice di autodistruzione. Italiani, abbandonate lo Stato. Avete 1 mese prima che tutto crolli. Attenzione, ultimo avvertimento, abbandonate lo Stato. Con questo aumento della benzina, delle accise, ci hanno rotto il cazzo. Ma devono finire. Quelle 4 merde che sono al governo si trattano come dei muli da soma. Gli italiani sono dei muli da soma. Vabbè, il clima, come sentite, anche un po' Forchielli, hai sentito la segreteria telefonica, il clima è un pochino, la gente po' arrabbiata, qualcuno si lascia andare anche, io le ho lasciate, però insomma la gente si lascia andare anche un po' delle considerazioni. Beh, anch'io. Sì, no, capito Forchielli, però un pochino. Intanto l'IVA aumenta, Forchielli, qua. Appunto, voglio dire appunto, cioè, questa è una roba che tranquillizza i mercati. Lo so, e non gli italiani, non gli italiani. Io capisco, sì. Ma tanto poi gli italiani le paghiamo dopo, capito, non è che, cioè, adesso stiamo contenti 2 mesi, poi dopo saltano i conti, poi dopo altre tasse, altra manovra. Non è che possiamo uscire da questo circo, ormai il debito c'è e dobbiamo decidere se vogliamo fare default o vogliamo onorarlo. Poco da fare, capito? Però Forchielli, lei è sempre stato un po' duro anche nei confronti di Letta. Ieri non l'avrà visto da Fazio, perché non credo che a Hong Kong abbiano dato in diretta Enrico Letta da Fazio, che ha detto non voglio fare il re Travicello, no? Cioè, che sta lì come la favola di Esopo, che sta lì aggrappato alla poltrona. Insomma, non ha avuto un sussulto di, come dire, di forza Ma guardi, se ce l'ho, perché ci ha tirato per il culo, capito? Prima ci ha detto che il governo delle larghe intese era un governo stabile, mentre tutti sapevamo che non lo sarebbe stato. Poi ci ha detto che siamo usciti dalla procedura di infrazione, che era poi merito, uno dei pochi meriti del governo Monti, per poi rientrarci 2 giorni dopo, perché con le manovre dell'IMU ha fatto saltare di nuovo, siamo saltati sotto il 3%. Poi ci ha raccontato che la stabilità politica è alla base di tutto, mentre invece la stabilità politica non è alla base di tutto, perché in Giappone sono 50 anni che cambiano primo ministro tutti gli anni e non succede assolutamente niente. Negli Stati Uniti in questo momento c'è uno stallo, che è il Senato democratico e il Congresso repubblicano. C'è uno stallo, è grave, no, però il tasso sui T-bill, sui treasury bond sarà all'1%. Quindi voglio dire, questo continuo ricordarci che la stabilità politica è la base di tutto, è molto self-serving, si direbbe in gergo, ossia serve molto a lui per giustificare il suo ruolo, capito? Capito? Io non so cosa farmene della stabilità di un governo che non combina niente, capito? E che invece spende e poi dopo continua a ricattarci con questa storia che sembra il mercatino di Imola, capito? Se sto qui ti do una Colnago per una Bianchi, vado via ti aumenta l'IMU, però se rimango ti abbasso l'IMU, se vado via ti aumenta l'IMU, tutti questi giochini da subire. Com'è al mercatino di Imola danno la Colnago per la Bianchi? Io ho letto, l'ho conosciuto da bambino, perché io lavoravo con Andreatta, arrivò un giorno un ragazzino, disse professor chi è? Era il 91, Letta. E si spaccia come il discepolo d'Andreatta. Ma cazzo, ragazzi, Andreatta mi ha inculcato l'anti-berlusconismo nelle vene, perché disse fin dal primo momento, disse, quest'uomo rovinerà l'etica del paese. Non era una questione di politica di destra o di sinistra. Disse nel 1993, quest'uomo rovinerà l'etica del paese. E Andreatta non era certo di sinistra. Io quella roba lì ce l'ho nelle vene, e non me la sono mai dimenticata. Invece in Letta. Enrico Letta non poteva fare un governo con Berlusconi e al tempo stesso spacciarsi per l'allievo d'Andrea. Eccolo lì. Perché poi alla fine abbia avuto un sussulto d'orgoglio. Era l'unica alternativa che aveva, capito? Figura di merda che ha fatto. Eccolo, vabbè, Salvini, io devo chiudere, ma che succede? Che un pronostico, ci sarà un governo, ma l'ha già detto, ci sarà un governo bis in realtà. Sì, però non autoassolviamoci come italiani imputando di tutte le nostre colpe, i nostri difetti Berlusconi. Forchielli è così, le sue responsabilità, ognuno, Milan, Salvini, Forchielli, ognuno ha la sua parte di responsabilità. Secondo me ne usciamo. No, non faccia come Bersani che ha detto a Scanzi, è lei che ha fatto, io faccio il giornalista, Forchielli fa l'imprenditore. No. Secondo me ne usciamo, se ne esce tutto il paese sono più contento, se ne esce solo chi ha i requisiti per uscirne, buon per lui, sì, no, è chiaro. Che prendo per l'indipendenza del Veneto, io a questo punto non posso che augurare ai veneti di iniziare a salvarsi loro. Eccoli, se affonda la barca Salvini, almeno il Veneto votiamo per l'indipendenza. Vabbè. Ringrazio Matteo Salvini, Alberto Forchielli, grazie per essere stati con noi. Alla prossima, è tempo di giornale radio, rientriamo con la rassegna stampa. Volete dire la vostra? 02 4652 4492, chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492, e ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3, adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Siamo qui, sono le 17. Mannaggia, possiamo rifare? Siamo ripartiti dalla sigla. Sono le 7 e 17, c'è una piccola differenza. Ben ritrovati, cari debosciati, se vi siete svegliati ora, come dico io. Siamo pronti per la lettura dei giornali, per la rassegna stampa, e vi ricordo che oggi parleremo di che cosa? Beh, parleremo di questa situazione politica davvero difficile, se non in un equilibrio molto precario. Avremo ospiti oggi politici e non solo, ci sarà con noi Marzio Breda, che è un quirinalista del Corriere della Sera, per capire come butta dalle parti del Quirinale di Giorgio Napolitano. Ci sarà con noi il sindaco di Bari Michele Emiliano del PD, ci sarà con noi un rappresentante del gruppo GAL, Grande Autonomia e Libertà, Paolo Naccarato, per capire, adesso si conta già e si cerca di capire al Senato come si muoveranno le varie pedine per quello che succederà mercoledì, presumibilmente quando Letta andrà a chiedere la fiducia. E intanto andiamo appunto a capire che cosa ci propongono i giornali, ovviamente quasi tutti declinati in gran parte alla situazione politica in difficoltà. È lunedì 30 settembre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre su fisco, appalti e lavoro. le ricette anti-burocrazia, questo è il titolo di prima pagina, la cura delle imprese per rilanciare subito la competitività, l'edizione del lunedì. E poi tutti i vari giornali sono appunto dedicati alla situazione di politica di grande incertezza. Letta non si dimette e rilancia, così apre il Corriere della Sera. Per Repubblica, caos PDL, Berlusconi spacca il partito. Il giornale, Letta e Napolitano al mercato dei voti. Il Messaggero, Letta va alla conta, PDL nel caos. Per La Stampa, Letta in aula per la fiducia. Il Secolo XIX, la fronda dei ministri PDL. Il Fatto Quotidiano, la setta del condannato in rivolta, lo chiama così, la setta è il Partito Popolo della Libertà, mentre per l'Unità, rivolta PDL, Berlusconi, barcolla. Insomma, tutti i giornali declinano i titoli su soprattutto l'incertezza che c'è all'interno del Partito del Popolo della Libertà. E vedremo, ci sono tante interviste anche a ministri dimissionari che però vogliono dire la loro. Prima però voglio partire da alcune notizie di altro taglio prima di tuffarci nella lettura molto corposa degli articoli dedicati alla crisi politica. Intanto è lunedì e voglio ricordare che si apre oggi la 21esima settimana decisiva per la riforma elettorale, come si apre oggi la ventiduesima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Su, ottimismo, ce la si può fare. E voglio partire da che cosa? Una di quelle notizie che vi mette sereni, tranquilli il lunedì. Le tasse. Allora, sappiate che il Fatto Quotidiano fa due pagine, pagina 6 e 7, a parlare e cercare di capire quante sono le tasse. Una domanda che dovrebbe essere banale. Quante sono, secondo voi, le tasse in Italia? I balzelli. Peter Bescapè, tu che dici che sei in regia? Dai, un numero con labiale, io lo capisco. Anche te, Miriam Lucchetti, di qualcosa, un numero, fate. Quante sono le tasse? Vabbè, non dicono nulla. Forse 30, dice Peter Bescapè. Sono 107, almeno 107, dall'ombra al fungo spremuti 107 volte. Salvatore Cannavò, due pagine sul Fatto Quotidiano. Ne hanno contate 107, ma in realtà quando viene chiesto al Ministero dell'Economia la risposta è: bella domanda, quante sono? Non lo sappiamo manco noi. La Confesercenti di recente aveva pubblicato anche il bestiario delle 100 tasse che fanno tribolare imprese e famiglie. C'è di tutto, la tassa sull'ombra. Sull'ombra, scatta quando la tenda di un locale invade il suolo pubblico, la tassa sugli spettacoli nei pubblici esercizi, la tassa sulle concessioni, la tassa per iniziare i lavori edilizi, la tassa sulle cambiali, la tassa sui gradini, la tassa sui passi carrai, per la patente ci sono 4 tasse, poi la tassa di iscrizione al PRA, il bollo dell'auto, la targa, i diritti del Dipartimento Trasporti Terrestri e poi vabbè le accise sulla benzina, non parliamone, quelle che si paga la tassa per il 41% della benzina anche per la crisi del canale di Suez e per la guerra in Abissinia. Provarono a mettere, racconta il Fatto, anche la tassa sugli animali. Vi ricordate il governo Monti? Poi marcia indietro causa proteste sul possesso degli animali. Poi c'è l'IVA, la tassa sulla tassa. A cercare funghi si deve pagare la tassa per cercare funghi, il canone RAI, la tassa per l'acquisto, l'imposta ipotecaria, l'imposta catastale, l'imposta di registro, la TARES. Per seppellire i defunti c'è la tassa, per accendere i lumini c'è la tassa, per biglietto aereo, sbarcare in un porto bisogna pagare le tasse. Le tasse sul fumo, la tassa sulla supplica. La tassa sulla supplica. Era ironica. Non si potrebbe nemmeno impietosire le autorità, si pagherebbe la tassa sulle suppliche. La tassa sulle suppliche. Quella per istanze, petizioni, ricorsi diretti agli uffici dell'amministrazione dello Stato tendenti a ottenere l'eliminazione di un provvedimento. Ma come? Se fate un ricorso per tentare di eliminare un provvedimento, c'è la tassa sulle suppliche alla pubblica amministrazione. L'imposta sulla birra, le concessioni governative, imposte sugli spiriti e sugli zuccheri. La tassa sulle invenzioni per brevettare le nuove scoperte. Ma ragazzi, e poi si parla della crisi politica, dall'ombra al fungo spremuti 107 volte. Forse siete incorsi in una di queste tasse, chi lo sa. Notizia secondo me non solo positiva, sarebbe rivoluzionaria invece, positivamente rivoluzionaria, che proviene dal mondo della scuola. La scrive il Messaggero a pagina 10. ed è questa: scuola scatti legati al merito, il via libera dei professori. Allora, è una nuova norma che è contenuta nel documento di economia e finanza, quella di far agganciare lo stipendio degli insegnanti della scuola non solo agli scatti di anzianità, ma anche agli scatti per merito, ovviamente attraverso valutazioni. Ebbene, lo scatto al merito piace ai professori. Questa è già una grande notizia. Un aumento in busta paga non più collegato al tempo che passa, ma ai crediti acquisiti o conquistati. Questa è l'idea che lo stipendio sia movimentato, quindi dalla qualità del lavoro, e trova molti consensi. L'idea, il governo l'ha inserita in una nota allegata all'ultimo documento di economia e finanza, e ora gli insegnanti dicono, come Mario Rusconi, intervistato dal Messaggero, è il rappresentante dell'associazione dei dirigenti scolastici: da 15 anni chiediamo di valutare la qualità del lavoro dei docenti, ripresentiamo ogni legislatura una nostra proposta in questa direzione, ma non è mai stata presa in considerazione anche per l'opposizione dei sindacati. Dunque gli insegnanti dicono sì, scatti legati al merito, il via libera dei professori. L'articolo è a pagina 10 del Messaggero, l'articolo è di Alessia Camplone. E sarebbe davvero, davvero un qualcosa di rivoluzionario in positivo, e pur si muove, si potrebbe dire, cioè la meritocrazia nella valutazione dello stipendio degli insegnanti nella scuola. Voglio anche, prima della pubblicità del meteo, darvi questa buona notizia, perché dite sempre: ah, ma ci sono cattive notizie, non ci racconti mai niente di buono. Io leggo i giornali e quindi il menù è questo. Non è che vi possa inventare dei giornali come piacciono a voi. Questi sono e questi vi sorbite. Però ho trovato questa bella notizia nella prima pagina, per la verità, del Corriere in inserto Milano, quindi il Corriere della Sera in inserto di Milano. Se non siete di Milano non la potrete leggere, ve la racconto io. Ed è questa: trova 105.000 euro e li restituisce. Guarda che questa, no? È incredibile. Avete capito, là in regia? Ha trovato 105.000 euro e li ha restituiti. È successo in Brianza. Il nostro Peter Bescapè ha fatto una faccia come dire: ma è pazzo questo? No! Smettila! È un segnale positivo di straordinario altruismo. Tra l'altro ha voluto rimanere anonimo. Di lui si sa solo che ha 49 anni, vive in Brianza, ha un senso civico molto superiore alla media dei connazionali, anche del nostro Peter Bescapè. Il protagonista di questa storia ha trovato una valigetta con dentro 105.000 euro in contanti. Cosa ha fatto? È andato alla più vicina stazione dei carabinieri, l'ha consegnata, e i carabinieri hanno ovviamente trovato la persona. Era un 72enne di Berlino, imprenditore, al quale era stata derubata questa valigetta. Era venuto con tutti questi contanti per un evento in programma all'autodromo di Monza. Certo che andare in giro con la valigetta con 105.000 euro non è il massimo, però la notizia positiva è questa: i soldi sono stati consegnati alla stazione dei carabinieri, dove ovviamente era arrivata la denuncia nel frattempo del tedesco, al quale sono stati restituiti. La borsa si trovava tra due auto parcheggiate, una delle quali aveva il finestrino in frantumi. Il 49enne, una volta aperta la valigetta, ha notato, oltre le mazzette di banconote, anche alcuni documenti che gli hanno permesso di risalire al legittimo proprietario. Ed ecco che è stato convocato questo tedesco ed è stata organizzata la riconsegna. Per il brianzolo un abbraccio, una calorosa stretta di mano di ringraziamento, e per il berlinese una bella lezione da riportare in patria. Ho capito, un abbraccio, una calorosa stretta di mano, 1000 euro, 500 euro glieli poteva dare. No, non si sa, il tedesco, a meno così scrive l'articolo del giornale, non pare non gli abbia dato niente. Comunque, restituisce una borsa con dentro 105.000 euro, lo fa un italiano a un tedesco. Domani magari l'apertura, non so, di Die Zeit potrebbe essere questa. Altro che le solite cose: spaghetti, mandolino, mafia, italiani, Bravi, bravi. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci qui. Beh, un'ascoltatrice Rossana mi scrive via SMS: questa la normalità, no? Della persona che ha trovato 105.000 euro e li ha restituiti. E mi dispiace che ci meravigliamo tanto. Insomma, è vero, qualcuno può dire: ma è davvero una notizia che uno trovi dei soldi e li restituisca? Beh, 105.000 euro. Sì, un pochino una notizia lo è, cara Rossana, condividerà che una notizia lo è, perché sono una tentazione, inutile fare troppo i buonisti. In ogni caso, la politica, gettiamoci allora nella lettura dei giornali che sono molto molto densi di politica. Già il lunedì le notizie sono scarse in genere, figurarsi con un sabato e domenica come quello che c'è stato, praticamente tutti i giornali sono declinati per l'80% delle loro pagine a quella che è la situazione di grave incertezza della politica, dopo che sono stati ritirati sabato sera tutti i ministri e le dimissioni dei ministri del Popolo della Libertà, e dopo che ieri dunque Letta è andato a colloquio con il capo dello Stato Giorgio Napolitano. Tra l'altro si è deciso che questa roadmap prevede che mercoledì ci debba essere il passaggio al Senato e poi alla Camera per la richiesta di fiducia. Napolitano, le tappe per evitare la crisi, voto di fiducia è un sì fino al 2015, così titola a pagina 2 il Corriere della Sera l'articolo di Marzio Breda, che poi avremo ospite alle 8:15, racconta dell'incontro tra Letta e Napolitano, e scrive: Breda vuole un percorso lineare senza ambiguità, altrimenti gli italiani non capirebbero. Suggerisce dunque una successione di passi in grado di sgombrare al più presto l'ombra di una crisi di governo aperta ma non formalizzata. Resta ancora da valutare la portata dei distinguo e dei dissensi echeggiati in casa PDL, e indecifrabili le voci di scissione dentro il partito tra Descamisados e moderati, con l'ipotetica nascita di un nuovo gruppo parlamentare, segnali dunque che sembrano per il momento più sussulti che altro. Comunque, vuole questo percorso il capo dello Stato, lo vuole anche Enrico Letta, che ieri poi si è presentato da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa in serata. Il resoconto anche a pagina 3 del Corriere della Sera: Letta, non voglio fare il retravicello, mercoledì vado in Parlamento. Lo dice alla fine, prima dei saluti, scrive nell'articolo Monica Guerzoni. A Silvio Berlusconi, nel giorno del suo compleanno, Enrico Letta augura dal profondo del cuore anni di serenità, uno stato d'animo di cui l'Italia ha molto bisogno e che sarebbe utile per tutti. Non sarà il retravicello della favola di Esopo, se avrà i numeri andrà avanti, in caso contrario farà un passo indietro. Dice Letta: non sono disposto a guidare governi elettorali o di piccolo cabotaggio, non mi interessa governare a tutti i costi con una maggioranza che sta in piedi per 3 giorni. Ma, racconta in realtà il Corriere della Sera, il premier comincia a sperare che il muro berlusconiano, crepa dopo crepa, possa davvero franare. E in effetti questo è il tema che è più affrontato dai giornali, e cioè, se si va a leggere varie interviste che sono presenti un po' ovunque di ministri che hanno scelto di confermare le loro dimissioni, ma che cominciano a mostrare dei dubbi, a cominciare da quella frase di Alfano che dice: sarò diversamente berlusconiano. Questo ha aperto un fronte, e tutti i giornali vanno ad analizzarlo, delle possibili divisioni, anche spaccature. Qualcuno evoca la nascita di un nuovo partito che possa affiancare in qualche modo Forza Italia. Berlusconi tira avanti dritto, subito al voto, io in forma, titola per esempio a pagina 5 del Corriere della Sera. Non sono stanco di combattere, sono in piena forma, e stanotte, dopo 59 notti in cui non riuscivo a dormire, sono riuscito a dormire per 10 ore di fila. Insomma, quindi un Berlusconi che si fa vedere molto molto sicuro di sé. Ma dicevamo, da quel diversamente berlusconiano di Alfano, ecco le interviste ai vari ministri. Beatrice Lorenzin, ministra alla salute dimissionaria. No, sentite cosa dice al Corriere della Sera, intervistata da Daria Gorodischi, una frase anche molto dura: non posso accettare l'idea di un partito alla Alba Dorata che considera traditori chi la pensa diversamente. Cioè, fa un paragone con il partito considerato addirittura di neonazisti in Grecia. Intendo battermi perché nel mio partito ci sia spazio per i moderati. Denis Verdini, Daniela Santanchè, Daniele Capezzone, Sandro Bondi non rappresentano i valori di Forza Italia delle origini, così Beatrice Lorenzin. Ma se andate anche ad altri ministri, per esempio un altro è Mario Mauro, ministro alla difesa, per la verità lui è di Scelta Civica, intervistato dal Messaggero Carlo Mercuri, a pagina 7 dice: sono stato a pranzo in un noto ristorante nei pressi di Montecitorio, tutti sono di centrodestra, dal proprietario all'ultimo dei camerieri, beh, tutti erano furibondi. Oppure anche un altro ministro del Popolo della Libertà, Quagliariello, ministro delle riforme, intervistato a pagina 5 dal Messaggero, dice: stiamo valutando se dar vita a un nuovo partito. Beh, Quagliariello dunque è molto esplicito: dobbiamo vedere se possiamo creare una nuova formazione dove sia possibile essere diversamente berlusconiani. D'altra parte, in Francia di partiti gollisti ce ne furono 3, qui da noi potremmo averne 2. Non ci troverei nulla di strano. Berlusconi mi sembra abbia aperto la possibilità comunque di andare avanti votando la legge di stabilità. Cosa non la convince nella Neo Forza Italia? Questa è la domanda del Messaggero, e risponde Quagliariello: le dimissioni dei parlamentari saranno anche stato un atto simbolico, ma le giudico un atto di una inusitata gravità. Forza Italia è stata il partito della maggioranza silenziosa del paese e questo lo si deve a Silvio Berlusconi. Invece nell'ultima settimana è sembrata una riedizione di Lotta Continua. E beh, sentite anche le frasi pesanti del ministro Quagliariello, che dice Forza Italia come Lotta Continua, lui che di questo partito fa parte. Ma ancora non è finita. Anche Maurizio Lupi, un altro ministro che si è dimesso, ministro alle infrastrutture e trasporti, intervistato a pagina 9 dal Corriere della Sera, Elisabetta Soglio, fa una lunga intervista e dice: mi sono dimesso perché la serietà in politica è una cosa importante. Ma aggiungo che la strada è sbagliata, perché così non si fa il bene del paese. C'è il rischio che Forza Italia diventi un partito estremista che urla, strepita, insulta le istituzioni e mette in secondo piano il bene del paese. Cosa significa che siete leali ma non fedeli a Berlusconi? Ed ecco come risponde il ministro Lupi: io ho un bellissimo cane che si chiama Macchia e mi è fedelissimo, mi fa feste, mi segue ovunque, ma la lealtà è un'altra cosa, significa sorreggersi vicendevolmente nell'avventura della vita, nelle fatiche, negli insuccessi, significa dirsi anche che qualcosa non sta andando per poi rimettersi in cammino insieme. Insomma, fa il paragone con il suo cane, che mi è fedele, quella è la fedeltà, quella del cane, ma non è lealtà. In tutto questo, cari ascoltatori, è partita già la conta dei senatori. Ma prima di arrivare a questo voglio proporvi due editoriali che propongono la situazione, leggono la situazione in maniera opposta. Il primo è Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, che titola: c'è una comprensibile irritazione nella compagine ministeriale del Popolo della Libertà dimissionaria da sabato sera. Alfano, Quagliariello, Lorenzin, Lupi, Di Girolamo, con qualche distinguo di forma o sostanza, si adeguano ma non condividono al punto di ventilare un loro futuro fuori da Forza Italia. Non si capisce se sulle orme di quel genio di Gianfranco Fini. Poi la seconda osservazione, scrive Sallusti, riguarda la parola eversione. Non vedo cosa ci sia di eversivo nel non voler rendersi complice di uno scellerato aumento di tasse. Credo invece che eversiva sia stata la decisione di Letta e del PD di alzare le tasse e non onorare i patti di maggioranza. Questa è la posizione di Alessandro Sallusti. Mentre in prima pagina del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, il direttore, fa un editoriale molto duro nei confronti della decisione di Silvio Berlusconi di accelerare sul fronte delle dimissioni, ma molto molto duro, tanto che il titolo dell'editoriale è l'indignazione dei moderati. Ebbene, c'è un paragone iniziale molto molto forte. Scrive De Bortoli: la scelta irresponsabile di Berlusconi e dei suoi fedelissimi, compiuta in spregio perfino alle regole di un partito personale, al sapore amaro dei gesti inconsulti e disperati, non serve a nulla. Non modifica di un palmo il destino giudiziario del Cavaliere, ma spinge un paese in ostaggio sull'orlo di un nuovo baratro. Ed ecco qui il paragone molto forte col fascismo, scrive De Bortoli: Arcore si è trasformata nel ridotto della Valtellina del berlusconismo. La spallata al governo Letta contraddice tutte le mosse apprezzate dell'ex premier all'inizio della legislatura, la rielezione di Napolitano, la nascita delle cosiddette larghe intese, procura un danno incalcolabile soprattutto al proprio elettorato di riferimento formato da famiglie e imprese. E intanto racconta De Bortoli il precedente aumento dell'IVA dal 20 al 21%, va ricordato, del settembre 2011 e Premier era il cavaliere. Tra i tanti difetti del governo Letta c'è anche una certa propensione a sostituire un'imposta con un'accisa o l'IMU con la service tax. I costi del pronunciamento di Arcore, nel caso la situazione precipitasse, sono presto fatti, i modesti segnali di ripresa svaniscono, i grandi investitori internazionali diffidano ancora di più di un paese che non capiscono e come dare loro torto, il costo del debito è destinato a salire, la seconda rata dell'IMU si paga, niente rimborsi alle imprese, la riduzione del cuneo fiscale ritorna nel cassetto delle buone intenzioni, le imprese continuano a morire e molte altre non riescono a sfruttare la brezza della ripresa a vantaggio dei loro concorrenti di paesi più stabili e seri. Insomma, in questo editoriale di De Bortoli c'è tutto anche lo sdegno per una situazione, un gesto definito inconsulto e disperato. Che dire, si diceva che al Senato si fa la conta. Si fa la conta, secondo il secolo XIX mancano quanti? 18 voti. Al pallottoliere del Quirinale, 18 voti per trovare una maggioranza alternativa, togliendo tutti quelli del Popolo della Libertà, sempre che tutti quelli del Popolo della Libertà, stiano tutti con l'attuale governo Letta. Sta di fatto che mancano 18 voti, questo per il secolo XIX, ma anche a pagina 10 del Corriere della Sera, le tre opzioni in campo per salire a quota 161, c'è anche il peso dei senatori a vita. Ah, adesso inizierà la polemica sul peso dei senatori a vita, che saranno chiamati molto probabilmente a una prima decisione meramente politica, quella di votare, e ci sarà la polemica anche su questo. Mancano, diceva il secolo XIX, 18 voti per La Stampa, il titolo è mancano 19 voti per una nuova maggioranza, apriti cielo cari italiani, saremo anche sottoposti a quelli che sono, guardate per esempio in un'infografica La Stampa li mette così, favorevoli certi 138 a sostenere Letta, poi ci sono i favorevoli in dubbio, 12, gli incerti 14, poi ci sono quelli di Gall 10, uno sarà nostro ospite, il senatore Naccarato, cercheremo di capire che cosa farà, poi ci sono 4 ex del Movimento 5 Stelle, ci sono poi oltre ai favorevoli in dubbio i contrari in dubbio, poi ci sono i contrari certi, poi c'è la Lega, poi c'è un mal di testa incredibile, voi italiani sarete sottoposti questo weekend a gente che li vedi in metropolitana, invece di fare il sudoku faranno il pallottoliere del Senato, allora questo passa di qua, questo voterà Letta, questo certamente no, questo magari se lo comprano, quest'altro non se lo comprano certamente, e così insomma, e sarà una settimana di passione politica. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Eccolo là, e allora state facendo già i calcoli di chi passa con chi, chi rimane lì fermo, immobile, chi potrebbe fare il volta gabbana, chi potrebbe tradire, se poi esiste il concetto di tradimento in politica. Insomma, fate il vostro pallottoliere perché mercoledì si vedrà. Intanto Micaela Biancofiore in un'intervista a Repubblica, pagina 4, tuona, chi abbandona Silvio farà la fine di Gianfranco Fini. E, insomma, ci si richiama al dovere, perfino Umberto Bossi, che riappare in un'intervista breve al Quotidiano Nazionale, intervistata a pagina 4 da Rossella Minotti, ieri era a Lesa in provincia di Novara, ha detto: ho fatto gli auguri a Berlusconi, ma stavolta lo dico, ha sbagliato, ha esagerato, le reazioni a caldo non vanno bene, la vendetta è un piatto che si gusta freddo. Così Umberto Bossi. D'altronde tutti sanno che è un perseguitato, non si è mai visto che quello che paga più tasse in Italia finisca condannato. Così Umberto Bossi, intervistato dal Quotidiano Nazionale. Oh, mentre la politica crolla miseramente nella situazione di incertezza totale, l'IVA aumenta. Questo è il dato di fatto. E tra l'altro i conti pubblici, pagina 13 del Corriere della Sera, il titolo e l'articolo di Mario Sensini, Deficit, IMU, occupazione, missioni, allarme del tesoro. Servono 5 miliardi, questo è il titolo. 5 miliardi, io metto sempre a disposizione i miei due canonici eurini con i quali giro tenendoli in tasca. Se lor signori vogliono, se a lor signori aggrada, questo è ciò che posso offrire. Servono 5 miliardi. Ogni giorno ci sono questi titoli assolutamente... che sono delle, come delle minacce, anche perché tra due giorni aumenta l'IVA di fatto, no? Dal 21 al 22% martedì, eppure servono anche aumenta anche la benzina, aumentano le accise e tutto, eppure chiedono ancora soldi. Servono 5 miliardi, c'è l'IMU, la cassa integrazione, rifinanziare le missioni internazionali, c'è la situazione di deficit, bisogna rispettare il 3% del patto di stabilità, e vabbè, è tutto così, e va bene, andiamo avanti. O invece non c'è pace per Antonio Ingroia, che ha abbandonato almeno per il tempo la politica, è passato a fare l'avvocato, è comparso in un procedimento come avvocato. Che succede? Rischia l'accusa di esercizio abusivo della professione. Pagina 11, il Messaggero, si è presentato toga sulle spalle come avvocato in un processo, ma il problema, che era stato sottolineato, racconta il Messaggero proprio da noi tre giorni fa, è che probabilmente non aveva finito ed espletato tutte le pratiche necessarie per diventare effettivamente avvocato. E dunque per questo Antonio Ingroia rischia addirittura l'accusa di esercizio abusivo della professione di avvocato. Vabbè, siamo quasi in conclusione, tra poco c'è anche una novità nella rassegna stampa, ma prima il premio, la carta costa per l'articolo più inutile scovato sui giornali, a mio insindacabile giudizio ovviamente. Oggi vince Il Giornale, che a pagina 20 dedica un'intera pagina sugli italiani a letto. Gli italiani a letto, il titolo è Gli italiani a letto dei fulmini. Dei fulmini, ma no, che non è una cosa bella, dei fulmini ogni tre giorni, ma per due minuti, il rapporto medio, scrive Il Giornale, e lo fanno ogni tre giorni, hanno all'incirca 9 rapporti sessuali al mese, più della media mondiale, peraltro, ma la prestazione è di circa 2 minuti e Il Giornale dedica mezza pagina a questo tema, ma chi se ne fotte, ma vi rendete conto? Eppure così è. E dunque la carta costa, va agli amici del Giornale. Ricordatevelo, amici, che la carta, per l'appunto, costa, è preziosa. Ma prima di chiudere la rassegna stampa, io voglio salutare, perché da oggi sarà con noi, e così sbrandato, il debosciato sarà sveglio, Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Ciao Mauro, eccoci qua. Buongiorno Milan. Beh, debosciato, insomma. Diciamo che alterate un pochino il mio ritmo circadiano. Mi hai fatto già venire il mal di testa. Comunque, ci racconterà da oggi le novità più importanti che ci sono sul Sole 24 Ore, oggi edizione del lunedì. Che cosa ci propone? Guarda, direi che siccome appunto, come dicevi tu, la carta costa, oggi ricordiamoci che intanto è l'ultimo giorno per l'invio della dichiarazione dei redditi, lo spieghiamo nella sezione norme e tributi del Sole 24 Ore, un appuntamento molto importante. Se si fallisce questa scadenza ci sono poi 90 giorni per un invio che pur tardivo può sanare. Tutte le istruzioni e le avvertenze, diciamo così, dell'ultimo minuto per un problema molto così... L'ho già fatto, meno male. Stai a posto. Sto a posto, almeno questa me la sono scampata. Non riguarda te, ma i nostri amici che hanno un'impresa o lavorano in un'impresa in materia di smaltimento dei rifiuti lo sanno molto bene. Incombe il SISTRI, la tracciabilità elettronica dei rifiuti. Da domani si parte per il SISTRI, il primo banco di prova, lo spieghiamo sempre in norme e tributi. Attenzione, ci sono dei rischi, li riassumiamo in una tabella, che sono importanti, sono gli obblighi nuovi, è il primo pezzo dell'attuazione di questo sistema tracciabile che sta dando diversi mal di capo a chi deve occuparsi di questa materia. Ottimo. E poi sempre per le aziende ti segnalo anche che ci sono 4 pagine dedicate alle nuove norme sulla cosiddetta 231, molti magari non dirà granché, ma vi assicuro è una normativa importante, riguarda le sanzioni alle imprese. Sì. Queste sanzioni sono state allargate anche in caso di violazioni della privacy, quindi attenzione, guardatevi da queste pagine che mettiamo oggi sul Sole del lunedì, la privacy allarga la rete della 231, ci ci sono dei rischi importanti per le imprese, quindi è bene essere informati su questo. Mauro, io ti saluto e ti ritrovo domani, grazie intanto. A domani, grazie a voi. Grazie, e tutto questo ovviamente sul Sole 24 Ore, tempo di Giornale Radio, e poi rientriamo con gli ospiti per parlare di politica. 24 mattino. Eccoci qui, ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:18. Allora, cari italiani, la politica italiana, diciamolo francamente, ci regala un'altra pagina del suo classico repertorio, cioè l'incertezza perenne, l'instabilità, anche un po' il teatrino delle dichiarazioni. E quindi che succede questa settimana? Aumenta l'IVA, aumentano le tasse, dunque domani molto probabilmente, a meno di clamorosi salvataggi all'ultimo momento, aumenta la benzina, le imprese continuano a essere in difficoltà, oggi scadono 49, ci sono 49 scadenze fiscali, non c'è il lavoro, non c'è la crisi, non c'è la crescita, eppure siamo tutti qui appesi a capire se il governo passerà questa settimana e se avremo ancora il governo e questo governo dopo che mercoledì Letta andrà al Senato, dopo che nel weekend, come sapete, il Popolo della Libertà con Silvio Berlusconi ha fatto dimettere tutti i ministri, e bisogna capire se ci sono i numeri ora per la fiducia al Senato. È già partita la conta con i pallottolieri che trovate ben spiegati sui giornali, mancherebbero tra i 18 e i 19 voti per ottenere una nuova maggioranza che sostenga il governo Letta. Ma poi, se anche non ci fosse la fiducia al governo Letta, davvero si andrà a elezioni? Non è così scontato. Cerchiamo di capire che cosa succederà in questa settimana. Voglio anche il parere di voi ascoltatori, 800 24 00 24. Che ne pensate? Siete disorientati? Ci capite qualcosa in questo momento di grave incertezza politica? Intanto con noi c'è Michele Emiliano, il sindaco di Bari del Partito Democratico. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Un osservatore anche magari un po', no, sicuramente addentro alle cose, ma magari un po' estraneo, visto che la vede dal punto di vista dell'amministrazione. Saluto anche Marzio Breda, che è il quirinalista del Corriere della Sera. Marzio Breda, buongiorno e benvenuto. Buonasera. Eccoci qua. Allora, Breda, io ho letto oggi con molta attenzione anche quello che scriveva sul Corriere della Sera. La prima domanda è questa. Intanto qual è il clima e l'umore di Giorgio Napolitano, al di là delle dichiarazioni ufficiali dell'incontro ieri con il premier Enrico Letta? Qual è la situazione e la sensazione al Quirinale? Beh, è un umore ovviamente di forte preoccupazione e anche di così stupore che oscillante, diciamo, legato a certi segnali contraddittori. Per esempio, quando ieri il presidente ha preso il treno per rientrare da Napoli a Roma e in treno ha saputo in tempo reale della dichiarazione di Berlusconi, appunto contraddittoria, con la quale diceva forse la legge di stabilità, cioè l'ex finanziaria, potremmo anche votarla, e dice ma insomma non si capisce più nulla, cioè ma comunque è chiaro che domina la preoccupazione, ed ecco la necessità di questo chiarimento, e anche il chiarimento per il quale diciamo dopo l'incontro con Letta hanno deciso di prendere un giorno in più. Il chiarimento avverrà mercoledì, comincia prima il Senato poi la Camera, sì, proprio per dar modo anche tempo al PDL di chiarire al proprio interno questo travaglio che qualcuno ipotizza possa sfociare in una vera e propria scissione, ma che mi pare impossibile, mi sembra molto difficile, anche perché il Cavaliere oggi incontra i gruppi parlamentari del suo partito, chiaro che ha forti capacità, diciamo così, tra virgolette, selettive, quindi può darsi benissimo che alcuni di quelli che si sono espressi con distinguo oggi facciano marcia indietro, ecco. Però è interessante Marzio Breda, quando scrive sul Corriere della Sera che appunto anche qualora non vi fosse la fiducia al governo Letta, Napolitano penserebbe che cosa? A prendere una personalità, e sono identificate queste in Sacco Manni, l'attuale ministro dell'economia, o Giuliano Amato, neo giudice della Corte Costituzionale, per farne un governo di scopo. Quindi elezioni come estrema ratio, mi sembra di capire. Elezioni solo come estrema ratio, proprio perché il presidente è convinto, tra l'altro, che bisogna tranquillizzare, diciamo, le cancellerie europee, internazionali, e arginare questo, questa slavina che si profila sui mercati. La logica vorrebbe che per un governo di questo tipo, un governo del Presidente, un governo di scopo, che più o meno potrebbe assomigliare al governo che nel 93 Scalfaro fece attraverso l'allora governatore di Banca Ciampi, ecco, la logica vorrebbe che fosse scelto una figura istituzionale, sì, per esempio la seconda carica dello Stato, ma forse per l'appunto, ed è questo il motivo per cui circola il nome di Saccomanni assieme a quello di Giuliano, sì, Amato, c'è anche bisogno di un nome che funzioni proprio nei circoli finanziari. Saccomanni potrebbe essere il garante che in Italia si sta tentando di seriamente affrontare i temi economici. Lungo corso di Banca Italia e comunque adesso ministro dell'economia. Michele Emiliano, intanto le chiedo, sa che c'è molto spaesamento, molti ascoltatori mi scrivono, l'idea è che questi signori, immagino si riferiscano alla politica, non si rendono conto effettivamente di cosa sta succedendo agli italiani, ci scrive per esempio un ascoltatore. È davvero così oppure è un po' il solito qualunquismo pensare che la politica sia totalmente distaccata da quello che succede nel paese? No, io temo che gli italiani abbiano una lucida percezione della situazione e per certi versi io vorrei anche rassicurarli. In che senso? Sono molti anni che noi non siamo governati da politici che sono in grado di cambiare un indirizzo di governo, noi siamo governati da una serie di burocrazie o di tecnocrazie di altissimo profilo che sono in tutti i ministeri, in particolare nel Ministero dell'Economia, che con l'Unione Europea conducono il Paese. Quindi innanzitutto un segnale di ottimismo, non possono fare più danni di quelli che hanno già fatto al Paese, sia gli uni che gli altri, nel senso che per certi versi in questo momento noi abbiamo una situazione nella quale stanno solo cercando, e questo è il punto chiave, di trovare una maniera di salvare Berlusconi da una vicenda personale. Questo è un fatto assolutamente evidente. Nel frattempo tutto proseguirà. Immaginate che il bilancio dello Stato è già in sicurezza, perché l'aumento dell'IVA si verificherà, l'aumento delle accise probabilmente ci sarà alla stessa maniera. Hanno messo già in sicurezza i mercati. Oggi Saccomanni dice servono 5 miliardi ancora, io non so, ogni giorno c'è questo titolo. Sì, servono 5 miliardi perché nel frattempo questo governo in effetti con i suoi pastrocchi e contraddicendo appunto le burocrazie del Ministero dell'Economia ha sfondato il rapporto deficit-PIL, questo non lo dice nessuno però è un errore catastrofico che hanno fatto, perché noi siamo appena usciti dalla procedura di infrazione e ci ricaschiamo nel giro di 15 giorni, cioè è roba che anche a una scuola elementare la maestra si infuria. Pare che siamo al 3-1, se il bimbo dopo che ha finito di recuperare il latino comincia a non studiare la matematica, è chiaro che la maestra sarà. Però lei Emiliano qualche mese fa divenne anche celebre perché sponsorizzò l'idea del Movimento 5 Stelle per esempio al governo, cioè dicendo guardiamo anche al Movimento 5 Stelle. Adesso, tra tre giorni è partita la gran conta, no? Lei l'ha vista anche lei, i pallottoliere, adesso che facciamo, chi imbarchiamo, si potrebbe ritentare quella via? Io non lo so, non credo, perché il Movimento 5 Stelle sta cogliendo dei successi politici senza precedenti, cioè sta dimostrando, se mettiamo indietro la registrazione di tutto questo film tragico, Grillo aveva previsto tutto questo. Questa è la cosa che mi fa molto dolore come esponente del Partito Democratico. Io ero uno dei pochissimi militanti del partito che si è opposto al governo delle larghe intese, perché temevo che andasse a finire a rissa. Soprattutto mi chiedevo com'è possibile fare un governo con una persona che ha un unico problema, come rimanere libero nei propri diritti civili e politici, e come si fa a costruire con questa persona un governo e poi dirgli guarda però mi dispiace tu devi andare in galera. E qui Berlusconi ha ragione, vuole, ed è questo il motivo della pressione di oggi, cioè io vorrei che la lettura di quello che sta avvenendo sia chiara, stanno esercitando il massimo della pressione possibile per ottenere un qualunque salvacondotto per Berlusconi, ecco perché la dichiarazione di Berlusconi è equivoca e il capo dello Stato credo che l'abbia chiara, perché il capo dello Stato a Napoli, in carcere, ha parlato e ha detto una cosa molto importante, cioè ha parlato della necessità di un'amnistia. Ora, che sulla situazione carceraria italiana vada risolta con un'amnistia ho dei dubbi, perché, come posso dire, è il sistema che adoperiamo da 40 anni, sì. è la situazione. Però l'amnistia potrebbe facilmente contenere qualche clausola, qualche cavillo che valga anche per Berlusconi. Ora, più di questo al Presidente della Repubblica non si poteva chiedere, perché quest'uomo ha quasi 90 anni, sta tentando disperatamente di costringere il mondo politico italiano a fare un ragionamento che abbia una logica, ma purtroppo ho l'impressione che proprio la qualità intrinseca dei politici italiani non conduce a un ragionamento un po' che abbia al logica. Muro contro muro. Io vorrei chiedere a Marzio Breda se secondo lei è un pochino pentito anche Giorgio Napolitano di aver dato vita, di essersi speso per il governo delle larghe intese? Si diceva, ma come possono stare insieme queste due anime? Poi c'è la vicenda giudiziaria di Berlusconi che prima o poi verrà come un nodo al pettine a deflagrare sulla politica italiana. È un pochino pentito oppure non c'era davvero altra alternativa all'epoca? Diciamo che non c'era davvero altra alternativa. Vale per se non votare, ma votare cosa avremmo potuto votare? Veramente c'era il rischio Weimar, mai più si tornava alle urne con una legge elettorale che aveva dimostrato di poter produrre soltanto tre grandi minoranze e quindi l'ingovernabilità. Comunque, dal punto di vista dei sentimenti del Presidente, dovrebbe valere quello che fu il suo discorso di investitura quando davanti alle Camere giurò per il secondo mandato e fece un durissimo atto d'accusa a tutta la classe politica e richiamandola alla responsabilità. Va ricordato che il Presidente veramente fu incassato, andarono tutti i partiti i maggiori partiti con il cappello in mano a chiedergli di restare per un supplemento di mandato, proprio perché si era dimostrata l'impotenza a formare un governo. Quindi ieri stesso da Napoli, prima di rientrare a Roma, dove avrebbe incontrato Renzi, il Presidente ha spiegato che è una questione di numeri, diciamo così, che il Capo dello Stato è obbligato a cercare di verificare che esista una maggioranza in grado di formare un governo. Questo era l'unico governo possibile. È chiaro che c'era, incombeva già allora la sentenza della Cassazione per Berlusconi e altri procedimenti che gli prendono in capo, però probabilmente non pensava che lo psicodramma giudiziario avrebbe partorito questa situazione. Su questo è quello che si interrogano gli italiani. Allora andiamo un attimo in pubblicità. Io ringrazio Marzio Breda del Corriere della Sera per essere stato con noi. Rimane Michele Emiliano, ci raggiungerà anche un senatore del gruppo GAL, Grande Autonomia e Libertà, Paolo Naccarato, perché adesso siamo tutti appunto a fare la conta di chi appoggerà il governo Letta mercoledì al Senato. C'è da dire che oggi, e questo è un tema da cui ripartiremo, una considerazione che faccio anche per voi ascoltatori, ci sono i ministri del PDL, quelli un po' più dubbiosi. Per esempio Lupi al Corriere della Sera dice: la fedeltà è tipica del mio cane macchia, ma la lealtà è un'altra cosa. Oppure Beatrice Lorenzin, ministra dimissionaria della salute: non voglio che il mio partito diventi come Alba Dorata in Grecia. Sono i neonazisti, insomma. Oppure Quagliariello sul Messaggero, altro ministro dimissionario: stiamo valutando se fare un altro partito, ecco il essere diversamente berlusconiani. Allora non c'è il rischio che i problemi Berlusconi se li ritrovi soprattutto in casa nel suo partito? Tra un attimo. 24 mattino. Ed eccoci allora alle 8:37 minuti. Stiamo parlando della situazione politica molto molto incerta. Con noi c'è il sindaco di Bari Michele Emiliano. Ci ha raggiunto invece, lo saluto, il senatore Paolo Naccarato. Senatore, buongiorno. Buongiorno a lei. Il gruppo GAL, gruppo Grande Autonomia e Libertà. Tra un attimo sono da lei perché il pallottoliere è già preso in mano. I giornali cercano di capire che faranno i gruppi al Senato. Voi siete in 10 nel gruppo e quindi siete un numero abbastanza nutrito e contate. Fatemi sentire prima due ascoltatori. Claudio da Bergamo. Buongiorno Claudio. Buongiorno Milan, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Che dice? Sono duri di servizio, duri di comprendonio. Guardi, io sono intervenuto diverse volte. Se andiamo a votare, a parte l'assenteismo, però non è che abbiamo un ragno dal buco, perché comunque bisognava rifare la legge elettorale, ma non basta, non è rifarla, basta copiare quella tedesca. Ma dai, ma va benissimo quella francese, quello che vuoi, basta copiare, non devi inventarsi niente. Lei sa che io tengo il conto, siamo nella alla 22esima settimana decisiva che inizia oggi per la riforma elettorale. Già che eravamo dietro, dire va bene, restano lì 250 il Senato, rivediamo il Senato che è una doppia funzione, non è come le camere tedesche che hanno due funzioni diverse. E vabbè, questo non l'hanno fatto, quindi si poteva prendere. Però un pastrocchio del genere è una tragedia annunciata, cioè come mettere insieme, non so, io una pecora e un leone nella gabbia. Allora poi però per fargliela breve, cioè noi torniamo a votare e dopo una settimana siamo punto a capo. Potrebbe vincere qualche forza, e poi mi scusi, poi te la faccio breve, Michele Boldrin settimana scorsa disse ma rivediamo per esempio le pensioni su una base contributiva, rifacciamo il calcolo. Gli italiani avevano bisogno anche di una iniezione di ottimismo per vedere qualcosa. Come facciamo a trovare un miliardo? Partiamo da lì. E vabbè, ma lei insomma mette insieme tante cose. La situazione è che in realtà adesso siamo in una situazione, si è regrediti in una totale incertezza. Adesso bisogna capire se si passa questa settimana, caro Claudio, altro che legge elettorale o mettere mano alle pensioni. Comunque la ringrazio, vorrei andare ad Ascoli Piceno da Pasquale, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno Milan. Dica. Io volevo fare solo una considerazione. Questo governo era nato per fare quattro cose: mettere mano alle emergenze e la legge elettorale. Non sono stati in grado di farla. A questo punto si torni alle elezioni. Sono stati in grado di tornare alle elezioni in Grecia due anni fa, tre anni fa, dopo che quel risultato sciagurato che c'era stato. Sono tornati alle elezioni in Spagna, che stava peggio di noi, si diceva che stava peggio di noi. Noi non siamo in grado di tornare alle elezioni, sempre governi tecnici, il problema, Pasquale, è che se si torna alle elezioni e il paese è ancora dai sondaggi spaccato in tre, cioè PDL, PD e Movimento 5 Stelle, più o meno... però se ci si ritrova tra tre mesi nella stessa situazione, il problema è quello con questa legge elettorale. Comunque lei dice non hanno fatto quello che dovevano fare, soprattutto legge elettorale si vada a votare. Grazie Pasquale. Allora, insieme a Michele Emiliano, senatore Naccarato, gliela faccio subito la domanda. 10 di galla siete, come voterete? Votate la fiducia? Certo, uno prima deve ascoltare che dice il Premier Letta, però come siete orientati voi? Lo ignoro nella maniera più assoluta perché non c'è stata nessuna riunione di gruppo e del resto in questi mesi il gruppo GAL si è caratterizzato per un'assoluta libertà di giudizio e indipendenza dei suoi componenti, quindi non ci sarà un vincolo di gruppo. Naturalmente sarà fondamentale ascoltare in aula mercoledì il Presidente Letta e anche le opinioni contrarie, ma naturalmente... Come io ho anticipato in varie modalità, io penso che portare oggi il Paese alle elezioni in maniera così repentina sarebbe una cosa grave per il Paese. Quindi sareste orientati a salvare, se il vostro voto fosse decisivo, pur essendoci libertà di voto, lei dice all'interno del gruppo, orientati a salvare. Io faccio fatica, non dica al plurale, perché io faccio fatica già a parlare per me stesso. Perché dice così, Naccarato? Perché io invidio chi ha certezze in queste ore. Io ho tanti dubbi e preoccupazioni vere. Mi chiedo, per esempio, se una crisi di governo oggi non sia un tradimento per il Paese. Quindi lei, almeno per se stesso, da qui a mercoledì è più orientato a dire non si può andare a creare una crisi in questa situazione? Mi orienterò dopo aver sentito il Presidente del Consiglio in via definitiva, naturalmente, ma certo mi muoverò su una linea di responsabilità e di forte preoccupazione per il futuro delle famiglie, dei disoccupati, dei miei figli, dei suoi figli, dei figli di tutti gli italiani. Michele Emiliano ha sentito, che ne pensa Emiliano del fatto che, con tutto rispetto per Naccarato, comunque si è adesso ancora una volta in politica a contare il voto delle singole persone, che cosa farà uno, cosa farà l'altro? Mi preoccupa cosa sta accadendo in queste ore, cioè noi stiamo chiedendo a chi ci governa, soprattutto a Roma, perché poi Roma ha una capacità diciamo così, di staccare le persone dai problemi reali della gente che è senza precedenti. Me ne accorgo persino con persone che partono con le migliori intenzioni quando vengono e poi si perdono i corridoi smontecitori. Ora, ottimo di cosa sta accadendo in queste ore, perché se il gruppo GAL per esempio non ha una guida generale e non ha un indirizzo generale, immagino che ciascuno di questi verrà contattato da Tizio, da Caio, da Sempronio e ricominciamo con una procedura che non è che sia proprio bellissima. Cioè teme diciamo le sirene delle, come dire, non voglio usare termini che in politica... Parlo adesso per il mio partito, cioè io mi auguro che il Presidente del Consiglio e il mio partito non faccia questo giochino di reclutamento di persone su una ipotesi di governo che mira solo a sopravvivere. Cioè questo panico, ed è quello che volevo dire prima quando ho detto rassicuro gli italiani, non è che il governo è, come posso dire, scappa via se non ha la fiducia, il governo rimane lì, Monti è stato 5 mesi e in quei 5 mesi il Parlamento funziona ed è perfettamente in grado di fare la legge finanziaria, è perfettamente in grado di decidere se rinviare ancora il pagamento della rata IMU di settembre oppure no, che poi è quello che ci fa parte sforare il rapporto del PIL. Insomma, il governo non è indispensabile alla vita del Paese se non è il frutto di una intesa politica che intende cambiare le regole di sistema dell'Italia e quindi riporla finalmente al sicuro negli anni che verranno. Cioè o è un governo vero dove due grandi forze politiche si intendono su una grande riforma del paese, e questo per me era impossibile tra PD e PDL per la ragione che certo. PDL faceva questo governo solo per ragioni giudiziarie di Berlusconi. Pure è evidente che Letta rimane tranquillamente al suo posto, che abbia la fiducia o meno è abbastanza irrilevante, comunque questo governo non avrà la forza politica di realizzare le Ma le a questo punto riforme. Emiliano, non sarebbe il caso, lo dico a lei che è esponente del PD, sì. Approfittare da parte del PD della situazione, fare in modo che si vada alle urne, lanciare Matteo Renzi e sperare di sparigliare così la situazione? Ovviamente questa è la mia idea, lei mi ha tolto l'intervento con una solita intuizione fenomenale, però il punto è che se riusciamo a fare la legge elettorale tanto meglio, perché è evidente che il Movimento 5 Stelle parte con un grandissimo vantaggio. Io devo spiegare, ed è questo che dico ai dirigenti del mio partito, devo spiegare a tutti gli italiani con i quali ho contatto perché abbiamo fatto tutti questi pasticci col PDL e perché abbiamo ficcato un uomo politico di rilievo come Letta, era forse la migliore carta che avevamo, l'abbiamo ficcato in un guaio gigantesco e probabilmente lo abbiamo bruciato. Per fare che? Possibile che non c'è un solo dirigente del mio partito in grado di prevedere il futuro almeno a 5 o 6 mesi, perché il lavoro della politica, come quello del manager d'azienda, non è quello di andare, come posso dire, a sopravvivere, è quello di prevedere il futuro a 6 mesi, un anno, 2 anni, qui, e a fare le scelte conseguenti. Qui stiamo a 5 giorni, Emiliano, stiamo a 5 lo so, giorni però, a vedere. Creda, io ho fatto il sindaco di Bari 10 anni praticamente senza scossoni. Il mio lavoro era quello di svegliarmi ogni mattina cercando di capire cosa sarebbe accaduto fra 2 o 3 anni, non la mattina dopo, no, ma la mattina dopo era già andata, cioè non ero in grado di cambiare. Questo certamente. Dopo. Allora, dopo il traffico, vorrei capire dal senatore Naccarato se c'è il timore, perché se ne è parlato tanto anche in vicende passate, del cosiddetto, viene detto così brutalmente, mercato delle vacche, cioè la possibilità che in queste ore partano dei contatti per cercare di portare il voto di qualcuno, perché il voto dei singoli pesa a questo punto dalla parte che ognuno gli garba. Eccoci qui, sentiamo il parere di Alessandra da Bergamo. Buongiorno Alessandra. Buongiorno a tutti voi e grazie per avermi dato la possibilità di intervenire. Io volevo porre l'accento su una questione, cioè l'Italia ormai da un po' ha toccato il fondo dal punto di vista sociale, economico, politico, culturale non in ultimo in termini di importanza naturalmente, ma solo per elenco. Adesso abbiamo anche un altro primato, cioè abbiamo perso la dignità, perché siamo ricattati da un condannato, un'intera nazione, il governo di una nazione ricattata da un condannato, il quale oltretutto vuole farsi anche referente di una riforma sulla giustizia. Insomma, io non ho delle soluzioni da proporre. La vede male, però, diciamo, vede questa anomalia, una grande anomalia. Direi di sì. Va bene, grazie Alessandra. Vorrei tornare al senatore Naccarato. Senatore, ha sentito, e c'è il rischio, no, che ci siano, sì, delle telefonate. Guardi, dobbiamo mettere in ordine però le cose. Sì. Il primo rischio è per il paese. Siamo o no di fronte ad una crisi epocale? Certo. O è un'invenzione dei giornalisti? No, lo certo. Dico al sindaco Emiliano, che è in trincea tutti i giorni. Primo. Secondo, il mercato delle vacche non esiste. Non esiste assolutamente, perché è stato demolito dall'indignazione della gente a seguito di una sommossa dei cittadini alle ultime elezioni. Questo è morto e sepolto. Qui siamo di fronte alla libera determinazione di singoli senatori, eventualmente, se così sarà, che da soli, nella responsabilità della propria coscienza, decideranno o meno di votare senza condizioni. È legato esclusivamente all'esigenza di assicurare continuità all'azione di governo, voteranno o meno la fiducia. Questo è l'appuntamento che noi abbiamo. Non ci sono governicci, non ci sono trattative, non ci sono mercanteggiamenti. Sì. C'è la responsabilità nei confronti del paese e l'interrogativo, se non assicurare un futuro a questo governo ora e subito, di fronte alla crisi epocale che abbiamo, se non consumiamo tutti insieme in maniera irresponsabile un tradimento al paese. E questo sì, però, un'ultima cosa, mi consenta, sì, il sindaco Emiliano, poiché io ho grande simpatia non solo per il sindaco Emiliano ma soprattutto per Matteo Renzi, che guardo anche con curiosità e attenzione. Penso che le cose che ha detto oggi il sindaco siano un pessimo servizio a Matteo, perché quello è una linea che spacca l'elettorato di centrosinistra, e Matteo tutto ha bisogno tranne di una spaccatura così dura nell'area del centrosinistra. Ma che cosa ha detto Emiliano? Lei ha capito quali sono le frasi che non so che sono di pessimo servizio che ha detto Emiliano? Posso dire senz'altro, Emiliano auspica una crisi immediata con elezioni a brevissimo. Questo non fa né gli interessi del paese né gli interessi di Matteo. Ah, è questo, Emiliano, lei auspica questo? Ma, veramente, io più che auspicare scenari che probabilmente non sono neanche in grado di controllare, avrei auspicato che se proprio un governo deve continuare ad esistere, avesse la capacità di cambiare il paese e di fare le riforme necessarie. Ora, non mi pare che dalle parole del senatore Naccarato emerga una visione del paese che possa essere coniugata a quella di Letta e al suo discorso. C'è una grande confusione, come al solito, e ovviamente più di 1000 deputati che hanno tutto l'interesse a rimanere a Roma, quantomeno per dare, come posso dire, compimento alla loro esperienza parlamentare. Rispetto a questo evento, mi chiedo, siamo in grado di dare un governo al paese che non sia ovviamente una barzelletta o un governicchio? Io ho l'impressione di no, perché non c'è neanche un'idea che possa in qualche modo identificare questo nuovo governo, il Letta bis, attorno a che cosa dovrebbe nascere. No, questo è interessante, cioè il senatore Naccarato dice, Emiliano, va bene, voi potete fare un gesto di responsabilità, ma se prolungate un governo che non è efficace nelle cose da fare, tanto vale, fate danno addirittura, dice Emiliano Naccarato. Sono d'accordo con Emiliano, ma Emiliano deve essere d'accordo con me nel dire che gli dobbiamo dare il tempo ad Enrico Letta di fare le cose, perché nessuno ha la bacchetta magica e nessuno all'improvviso si inventa le soluzioni. Ma Letta sta seguendo un percorso dettagliato di riscatto del paese, diategli questa opportunità. E allora cercate di farlo capire agli italiani, perché noi non riusciamo a vederlo questo cammino di riscatto del paese. Vediamo solo una valanga di pasticci uno dietro l'altro, tipo lo sfondamento del rapporto deficit-PIL per cedere alle ragioni di Berlusconi sull'IMU. Emiliano, le posso dire con franchezza che non credo davvero che in fondo lei creda a quello che dice? Ma addirittura, secondo lei Naccarato, Emiliano non crede a quello che dice fin in fondo? Cioè, Naccarato dice che lei, Emiliano, in realtà non crede neanche lei fino in fondo a quello che dice. Insomma, è uno psicologo veramente formidabile. Comunque, senatore Naccarato, cioè, la questione è questa: saranno gli italiani di fronte a questo? Come si interrogano, secondo lei, per concludere, di fronte alla responsabilità della politica? Cioè, secondo me, guardi che molti italiani, che già hanno una pessima idea della politica, a maggior ragione Naccarato, si diranno ma che sta succedendo? Ma ancora una volta ci mettono in questa situazione di incertezza. Ed è esattamente quello che penso anch'io, e che con grande lungimiranza sta denunciando da settimane il capo dello Stato, cui va il mio devoto ringraziamento. Noi abbiamo la responsabilità di governare. Governare, certo, non non vivacchiare, insomma. Ha ragione lì Emiliano, sono perfettamente d'accordo. Ma bisogna avere il tempo per fare le cose, il tempo minimo necessario. Ci vuole il tempo, va bene, intanto staremo a vedere come va a finire, sarà una settimana di passione per la politica. Ringrazio Michele Emiliano, sindaco di Bari del Partito Democratico, ringrazio il senatore Paolo Naccarato del gruppo Grande Autonomia e Libertà, 10 senatori di quel gruppo che saranno ovviamente, come tanti altri, decisivi nel loro voto di fiducia che sarà presumibilmente mercoledì al Senato. Potete riascoltare tutto sul sito radio24.it. Ringrazio Miriam Lucchetti, Alessandro Marco Tulli, Elisabetta Fusconi in redazione, ringrazio anche il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Seguitemi anche su Twitter se volete, Alino Milan, quello è il mio profilo, e tra poco Giovanni Minoli sarà con noi per iniziare il nostro Parlamento, la Camera che si accapiglia sulla riforma costituzionale e il Senato che si accapiglia sulla decadenza di Berlusconi. Dovrebbero stare su Marte, perché non hanno la più pallida idea di che cosa sia la vita dei cittadini, e quando dicono la stabilità del governo per il popolo non sanno di quale popolo stanno parlando. Dovrebbero andare tutti una settimana a lavorare in un call center con un contratto CocoPro e il capo che gli cronometra le telefonate, e dovrebbero mandare tutti i loro figli alla scuola pubblica ad accapigliarsi con la preside perché non c'è la lavagna in classe, perché alla prima riunione ci dicono, sapete cosa ci dicono? Portate la carta igienica. Questo è il paese reale, e tutto il resto, perdonatemi, sono fandonie. 24 mattino.